nuovamente in studio, 7:47 minuti, vi lascio ascoltare un po' di musica, Black Month, Black Culture Month, il febbraio 2023, così, io la penso più come Morgan Freeman, magari ne parleremo nel Voltiamo Pagina. Oh, mi dite una cosa, il 333-180-9494, tra l'altro ne approfitto per il binomio che mi ha suggerito Matteo, che in effetti inverno, inferno, insomma, il freddo non è certo piacevole, però mi ditemi per una co-conduzione. Cosa vuol dire cringe? Io lo sento spesso, ma non so cosa vuol dire. Beh, ribadisco il numero 333-180-9494. Se voi lo sapete, quando dico ma è una cosa cringe, cosa vuol dire? Black is for our motherland. Black is for the proud black man. Black is for the beautiful face of a proud and beautiful race. Black is for the soul we need, so our nation we can be. Ringrazio il mio direttore Alessandro Canella che mi aiuta in questa co-conduzione. Grazie, Cur. Allora, come aggettivo significa imbarazzante, ma in un'accezione particolare è cringe, ciò che suscita imbarazzo e al tempo stesso disagio in chi lo osserva. Ad esempio, per un adolescente potrebbe essere cringe vedere uno dei propri genitori che balla in pubblico una canzone trap. Precisissimo, guarda. Grazie, ora lo so anch'io. Roy Ayers con questo brano, con la formazione Ubiquiti, Red, Black and Green. In letteratura l'incipit invece è l'inizio, è l'aire, quello che dà il via, il respiro immediato in una narrazione, ed è anche la rubrica curata da Silvia Pioggia, l'assist arrivata alla 13ª puntata. Apre, del resto è un incipit anche per la rubrica Voltiamo Pagina, che tra pochissimo, circa le 8:02 minuti, sarà in frequenza sui 103.1. Mi raccomando, ribadisco, 333-180-9494. Ci sarà anche il video oggi sul sito www.radiocittafugico.it e oltretutto la possibilità di arricchire le vostre già forbite biblioteche. Comunque sentiamo l'incipit di questa settimana curato da Silvia e poi pubblicità, dopodiché Voltiamo Pagina. Buon ascolto. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe.

See how we are.